9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 24 di settembre, auguri a coloro che hanno nome di Pacifico, perché questo è santo e bisogna essere proprio dei seguaci di San Pacifico, bisogna essere più che pacifici per credere oggi all'ipocrisia di tutti quelli del mangia mangia dei partiti che improvvisamente cadono dal pero e dicono sciogliamoci, andiamo da Monti, facciamo questo, facciamo quello, ma vergognatevi, questa è l'unica cosa da dirvi. E voi ascoltatori tentate di rimanere pacifici, va, perché naturalmente voi pagate, loro invece fanno finta di non sapere quello che prendono. Ma perché? Perché no? Allora, nel fine settimana naturalmente non c'è stata solo questa vicenda esplosiva e dai contorni estetico-antropologici penali che la dice lunga su che cosa sia il settore pubblico, sì, proprio quel settore pubblico che naturalmente i politici, quando si tratta di dire che bisogna tagliarlo, noi proponiamo di tagliarne per esempio almeno 6 punti di spesa pubblica in 5 anni, quando dico noi è www.formareldeclino.it, andate a vedere le nostre proposte, i politici vi dicono ma qui gli americani, i liberisti vogliono tagliare i servizi pubblici. Che sono metà del 51% della spesa pubblica. L'altra metà è questa bella roba laziale, che è in tutte le regioni, quasi, non negli stessi quantitativi, no, ma i criteri sono quelli delle regioni italiane. E quindi questa è la vera risposta da dare a chi dice l'intoccabilità del settore pubblico. La politica che ha aumentato la spesa corrente del 2% l'anno, questo vi ha fatto, vi ha depredato, vi ha mentito e oggi fa finta di dire ma sì, sciogliamo il PD-Lelle, abbiamo bisogno di pulizia, moralità, l'incolpevole Berlusconi, dice la Santanchè. Io mi faccio una risata. A questa aggiungo, devo dirvi la verità, una risata anche di fronte all'ipocrisia del moltissimi commenti Fiat che ho visto nel giorno successivo al lunghissimo vertice di sabato che c'è stato per 5 ore a Palazzo Chigi tra Marchionne e una folta rappresentanza del Consiglio dei Ministri, visto che oltre a Monti c'era Passera, il ministro Barca, la ministra Fornero e... Ne abbiamo molte volte parlato di questa vicenda. Allora, dire la verità, e cioè che si tratta di un'azienda che ha saltato molti cicli di investimento, a differenza dei suoi concorrenti, per scelte sbagliate di chi la controllava, che ha sbagliato i manager dell'auto, ha sbagliato a diversificare, ha sbagliato gli agnelli in questo, dall'88 più o meno, e che poi sia Barbica, grazie all'americano-canadese Marchionne, giustamente, per fortuna dell'azienda, per ciò che resta dell'azienda, al salvataggio americano. Dire questo pare che non ci si riesce proprio, cioè bisogna dire adesso che il problema è quello degli incentivi all'export per la Fiat e bisogna credere a ciò che nessun produttore dell'auto è mai riuscito a fare, cioè produrre in un continente per esportarlo in altri due. Beh, questo, in altri due, avete capito bene, in altri due, perché non si tratta solo di indirizzare verso l'America le produzioni che sarebbero riservate all'Italia, ma in attesa che decolli la joint con la Cina anche in Cina. Allora, questo, ripeto, riesce solo in piccola parte ai produttori che non hanno mai saltato un ciclo, che fanno grandi margini al mercato mondiale, cioè quelli tedeschi. E dico in piccola parte perché Volkswagen, che oramai fa più di un quarto delle sue vendite in Cina, non fa altro che destinare più di un quarto del suo programma di 68 miliardi di euro di investimento in 5 anni, sì, 68 miliardi di investimento, all'apertura di nuove fabbriche alle 7-8 che ha già in Cina. Quindi vi rendete conto che credere a questo, non lamentatevi poi se tra qualche mese vi diranno di nuovo che anche questo progetto non funziona, perché il problema non è tanto quello di prendersi con la Fiat, è di un paese la cui classe dirigente non riesce a pronunciare in alcune vicende delle verità che sono sotto gli occhi di tutti e che non c'è niente di male ad ammettere, a parte il fatto che bisognerebbe dire che è chiaro, gli Agnelli e la Fiat hanno sbagliato per anni il modello di diversificazione che seguivano. Chiusa parentesi, ora andiamo invece al tema del giorno. Il tema del giorno è sono le liberalizzazioni in Italia. Perché? Perché oggi esce la versione italiana dell'Index of Economic Freedom, che ogni anno, curato dalla Heritage Foundation e dal Wall Street Journal, mette in fila 184 paesi secondo dei criteri quantitativi e qualitativi, analizzando molti mercati e quindi costituendo una specie di graduatoria. E l'interesse, naturalmente, per questo che è considerato un po' la Bibbia annuale della valutazione quantitativa e qualitativa dell'apertura dei mercati, l'interesse è vedere negli anni come cambiano le posizioni. Inutile che vi dica che Singapore, Hong Kong, eccetera, sono in testa alla graduatoria da molti anni. L'America, nella versione 2012, ha visto peggiorare molto per via delle sue politiche pubbliche molto statalista e interventista la sua posizione. Ma oggi, come avviene ogni anno da un po' di anni a questa parte, esce la versione italiana e questa versione italiana è curata dall'Istituto Bruno Leoni e analizza i mercati dell'Italia rispetto a quelli, ai best performer, a quelli che offrono le migliori condizioni di apertura in Europa, e ne analizza i passi avanti, i passi indietro nel corso dell'ultimo anno. Quindi il punto quest'anno è capire se col governo Monti abbiamo migliorato o peggiorato una condizione che nelle versioni precedenti di questo rapporto era in realtà stazionaria dell'Italia, cioè erano anni che si saliva da 48 a 49 come indicatore, o si scendeva di un punto, si saliva di un punto. Vedremo oggi se con il governo Monti c'è stato un miglioramento, in che cosa c'è stato, a che cosa si deve, e soprattutto qual è la percezione degli italiani, perché io temo che gli italiani, dopo tanti anni a sentir parlare di liberalizzazione, da Lenzo Latri, Bersani, fino di nuovo a Monti, e averne visto poi un bilancio concreto molto più asfittico di quello annunciato. Facciamo un solo esempio, quello delle professioni, tante volte annunciate le riforme e così via, poi tante volte le resistenze che hanno frenato. E poi soprattutto anche gli italiani preoccupati dagli effetti sull'occupazione di ciò che gli viene spesso presentato da molti, l'apertura alla concorrenza, come qualcosa che taglia l'occupazione e non la produce. Vediamo un pochino quest'anno gli italiani come la pensano. Quindi, in attesa delle vostre telefonate, intanto ci facciamo raccontare cosa c'è scritto in questa edizione italiana dell'indice delle liberalizzazioni, ed è con noi Carlo Stagnaro a raccontarcelo, che è il direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a lei. E insieme a Stagnaro, Razione Uffici, come si diceva una volta in gergo un po' legalese, il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, quindi l'autorità indiscussa in questa materia, Giovanni Pitruzzella. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora Carlo, innanzitutto una sintesi, abbiamo migliorato, in che cosa, perché? Beh, abbiamo migliorato ed è la prima volta dal 2007, da quando cioè come Istituto Bruno Leoni compiliamo l'indice delle liberalizzazioni, che osserviamo un miglioramento che è significativo, perché cresciamo dal 49 al 52% in termini di valutazione complessiva del grado di apertura dell'economia italiana, e che riguarda la larga maggioranza dei 16 settori da noi considerati. In alcuni casi si tratta di miglioramenti molto significativi, e poi farò due parole sui principali, in altri casi di miglioramenti meno importanti ma comunque esistenti. Pochi settori restano essenzialmente stabili rispetto all'anno scorso e pochissimi vedono invece peggiorare, ma comunque in misura ridotta il proprio grado di apertura, e quindi per la prima volta dal 2007 possiamo dire con qualche soddisfazione, essendo noi persone che fanno da un lato un lavoro di indagine e di descrizione che cerca di essere obiettiva del grado di liberalizzazione, ma anche tifosi delle liberalizzazioni, possiamo dire finalmente qualcosa si muove, poco, in maniera insufficiente, sicuramente c'è molto da fare, ma qualcosa si muove e si muove nella direzione giusta. E quindi da cosa derivano questi tre punti di crescita del grado di apertura dell'economia italiana rispetto alle economie liberalizzate più liberalizzate d'Europa? Noi infatti confrontiamo ogni settore in Italia con lo stesso settore nel caso del paese più avanzato, più competitivo. Beh, è successo che una serie di provvedimenti dovuti in larga misura al governo Monti e in parte al recepimento di direttive europee hanno costretto il nostro paese a fare dei piccoli passi avanti, piccoli ma significativi passi avanti. Il caso più clamoroso è quello delle autostrade, dove il punto di partenza era molto basso, perché l'anno scorso noi valutavamo al 28% rispetto alla Spagna. Ci troviamo quest'anno 12 punti più avanti, al 40%. Perché? Per due ragioni essenzialmente. La prima è che il governo ha sostanzialmente fatto venir meno il conflitto di interessi che vedeva l'ANAS precedentemente essere al tempo stesso il regolatore del settore e il gestore di alcune autostrade, cioè era un regolatore che regolava se stesso. Questo fenomeno è venuto meno e contemporaneamente è stata costituita, anche se deve ancora insediarsi, un'autorità per i trasporti che dovrà fare da regolatore indipendente per tutti i concessionari autostradali, e questo indubbiamente implica, almeno in prospettiva, maggior certezza del diritto e maggiore garanzia che gli investimenti che vengono pagati in tariffa vengano effettivamente effettuati. Io qua la interrompo solo per dire che sono certo che i miei radioascoltatori su questo adesso ci copriranno di improperi dicendo: queste sono due promesse, non si vede ancora niente, perché gli ascoltatori nostri che ci ascoltano molto dall'automobile che usano per spostarsi, per lavorare, spostarsi, naturalmente su questo tema delle autostrade sono molto sensibili. Lo dico perché così chi telefona su questo sappia già che sono comprensivo, però almeno in termini di normativa e di apertura queste sono due importanti novità. Riprendo al filo. Beh, diciamo, quella sull'autorità dei trasporti è una promessa. La ristrutturazione dell'ANAS, dividendo i compiti di regolazione da quelli di gestione delle concessioni in mano pubblica, è un fatto. Quindi, come dire, qualche passo avanti l'abbiamo effettivamente compiuto. E dopo le autostrade? Poi abbiamo altri tre settori che fanno un passo avanti importante, che sono l'elettricità, le professioni e le poste. Nel caso delle poste, i 5 punti che vengono guadagnati passando dal 47 al 52% sono essenzialmente riconducibili al recepimento della direttiva europea. In realtà si poteva fare molto meglio, perché nel recepire la direttiva europea l'Italia ha scelto di fare il minimo indispensabile, però questo minimo indispensabile era comunque meglio della situazione precedente, quindi i Poste italiane in particolare dovrà subire un po' più di concorrenza grazie a un quadro più aperto. Nel caso delle professioni guadagniamo 5 punti grazie a un provvedimento del governo Monti, cioè in particolare, al di là di piccole cose marginali che sono state fatte, il fatto che sia stato consentito per la prima volta l'ingresso di soci di capitale all'interno degli studi professionali, e questo implica una prospettiva verso una maggiore competizione, concorrenzialità, investimento in innovazione eccetera da parte dei professionisti, informazione e così via. E infine nel settore elettrico il guadagno di 5 punti deriva dal fatto che è un settore di antica liberalizzazione, dove quindi i consumatori prendono sempre più confidenza con gli strumenti del mercato, cambiano più frequentemente fornitore e così via. Va detto però una cosa: questo 77% rischia di essere un dato parzialmente fuorviante, perché noi valutiamo il grado di liberalizzazione nel pezzo di mercato che è liberalizzato, ma c'è nel settore elettrico un grosso pezzo di mercato che è non liberalizzato, cioè la produzione rinnovabile che è sussidiata e che sta crescendo a dismisura, e quindi se noi facessimo la tara tenendo conto di questo fatto avremmo un risultato meno soddisfacente, e non è escluso che nei prossimi anni dovremo fare questa cosa per tener conto del fatto che la parte non concorrenziale del mercato è cresciuta a dimensioni non più minimizzabili. Aggiungo su questo che secondo me le 100 pagine del documento della strategia energetica nazionale uscita 2 settimane fa dal governo dal ministro Passera, eccetera eccetera. A questo, su questo proposito, a mio giudizio è molto deludente, una serie di obiettivi difficilmente raggiungibili e poco incisivi rispetto ai problemi seri della dipendenza da una parte e della parte non liberalizzata e ipersussidiata dall'altra del mix energetico nazionale. Però questa è una considerazione mia. No, è una considerazione giusta anche dal mio punto di vista, e soprattutto che consente di fare un ragionamento più ampio, cioè il principio che guida la strategia energetica nazionale e documenti simili, il piano infrastrutture di cui si parla, il piano di qua, il piano di là, è quello di fissare obiettivi quantitativi. Il senso di una liberalizzazione non è fissare un obiettivo, ma definire delle regole all'interno delle quali sarà il mercato a decidere quante infrastrutture ci servono, con quali tecnologie deve essere prodotta l'energia e così via. Tornando e per restare nel tema che sollevava lei sulle autostrade, l'aspetto positivo, se effettivamente verrà completata la riforma dell'introduzione dell'autorità dei trasporti, è proprio che l'enfasi della politica pubblica si sposta sulle regole e la scelta degli investimenti spetta agli investitori. Il ruolo dello Stato è quello di dire quali sono le dimensioni del campo da gioco e qual è il fuorigioco e chi fa gol e come, ma poi il risultato della partita deve stare all'abilità delle squadre e dei giocatori in campo. Oh, e invece i campi in cui col governo Monti siamo andati indietro nei misuratori? Ma i campi in cui siamo andati indietro sono quello dei servizi finanziari e quello della televisione, dove abbiamo perso rispettivamente 3 punti e 1 punto, ma in realtà in virtù di un'illusione ottica. Noi, dicevo, misuriamo il grado di liberalizzazione in Italia rispetto ad altri paesi. In questi due casi i nostri due paesi di riferimento, che sono la Svizzera per le borse e la Spagna per le televisioni, sono andati più avanti loro. E noi siamo rimasti fermi. E il terzo settore in cui abbiamo fatto passi indietro e presumibilmente li faremo ancora di più l'anno prossimo, e qui per colpa del governo Monti in realtà, è quello del fisco, che noi valutiamo rispetto alla Svizzera, dove evidentemente la crescente pressione fiscale è qualcosa evidente. Di cui tutti abbiamo sentito parlare. Senta, prima di dare la parola a Pitruzzella, avete fatto anche un sondaggio voi allegato, di cui poi torneremo a parlare più avanti, ma gli italiani, di fronte alla domanda qual è il settore in cui vorrei di più la liberalizzazione che non ho visto ancora fino a questo momento, che cosa rispondono, quale indicano? Ma non sembrano avere dubbi, nel senso che questo era un sondaggio a risposta aperta, quindi era possibile dare più di una risposta, ma oltre il 50% del nostro campione ha detto che chiede più liberalizzazioni, in particolare nel settore degli ordini professionali, forse anche per l'enfasi mediatica che c'è stata su questo. Interessante sono anche il numero 2 e il numero 3. Al numero 2 il trasporto ferroviario, tutti prendiamo il treno e ci rendiamo conto che la concorrenza non può far peggio di così. E la pubblica amministrazione, tutti abbiamo a che fare con gli uffici pubblici e ci rendiamo conto che un po' più di concorrenza potrebbe costringere la pubblica amministrazione a offrire servizi migliori e magari a un prezzo più basso. Perfetto, allora abbiamo visto i tre settori nei quali gli italiani dicono di più. Allora, professor Pitruzzella, innanzitutto si ritrova in questa fotografia dell'indice di quest'anno, oppure ci sono valutazioni di tipo diverso, e soprattutto qual è la sua opinione? Così la rendo anche più libero nell'esprimere le opinioni, perché naturalmente capisco, non si tratta di dare i voti al governo, però la sua percezione, la sua impressione su ciò che gli italiani pensano dopo che sentono questo tema della liberalizzazione da molti anni e poi ne fanno un bilancio molto spesso amaro, come di una specie di strumento che non serve a mantenere i tanti tanto sbandierati obiettivi di crescita, di occupazione aggiuntiva, eccetera eccetera, per uno che fa poi svolge il suo incarico adesso, è due volte difficile naturalmente tenere conto di questa consapevolezza degli italiani, di questa impressione degli italiani. Allora, inizialmente appunto le dico che sono totalmente d'accordo con le risultanze del rapporto dell'Istituto Bruno Leoni, che ci dà ancora una volta una radiografia accurata e seria del stato delle liberalizzazioni e dello stato del mercato del nostro paese. Detto questo, secondo me la vera domanda che noi abbiamo di fronte è: ma le liberalizzazioni stanno funzionando? In altre parole, i nostri cittadini vogliono un mercato che produca crescita, maggiori scelte per i consumatori e una distribuzione efficiente delle risorse. Ecco, il processo di liberalizzazione è in atto da anni, poc'anzi lei accennava alle lenzuolate di Bersani, col governo Monti sono stati fatti passi avanti significativi, lo attesta l'Istituto Bruno Leoni, però c'è la sensazione che ancora qualcosa non funzioni. Che cosa, secondo me? Ma posto che in tutti i settori, tranne quei tre di cui si è accennato, in cui ci sono stati dei passi indietro, dal punto di vista formale il mercato si apre, però c'è qualcosa che non permette di tradurre questa apertura in maggior benessere e in crescita e competitività. Io credo che questo qualcosa sia la mancanza di infrastrutture che fanno funzionare il mercato. Lei l'ha detto inizialmente, la pubblica amministrazione. Io credo che una delle principali palle al piede del paese che impedisce alla concorrenza di dispiegare pienamente i suoi effetti sia una pubblica amministrazione ipertrofica, un settore pubblico eccessivamente esteso, e si ricordava anche in apertura di questo incontro, il settore pubblico esteso produce anche dei fenomeni di corruzione e dei fenomeni di appunto spreco di risorse, quindi dovremmo operare una cura appunto dimagrante e dall'altro lato dovremmo impedire degli intrecci perversi che ancora ci sono tra settore pubblico e settore privato, e quindi le liberalizzazioni a mio parere devono andare insieme con forme di privatizzazione. In più appunto occorre quello che è stato detto anche poc'anzi, ribadire che lo Stato deve fissare le regole, non deve appunto gestire e non deve svolgere appunto, tanto più che la fissazione di obiettivi dovrebbe appunto attenersi al ruolo di regolatore e di arbitro. Detto questo, appunto, poi ci sono tanti settori in cui si può andare a fare di più. Si può fare di più per esempio nel settore dei trasporti, perché è vero è che è stata fatta l'autorità per i trasporti, però è vero che ancora sensibili miglioramenti non ne abbiamo, perché l'autorità è rimasta sulla carta. Occorre procedere rapidamente alla sua messa in opera effettiva e alla nomina quindi dei componenti dell'autorità. Posso chiederle, Pietruzzella, un giudizio anche sul fatto che, oltre alla difficoltà dell'accumulo di norme a volte farraginose, ai ritardi della politica, agli incomprensibili zigzag con cui poi magari avvengono decisioni che tengono conto anche di interessi, io sono per esempio a questo proposito molto curioso di vedere cosa succede davvero su questo cambio di fronte di Telecom Italia, che adesso si dice disponibile allo spin-off alla società delle reti, di cui terrebbe il 51%, ma Cassa Depositi e Prestiti poi gli prenderebbe parte del debito. Questo vediamo, ma al di là di questo ci sono anche problemi poi relativi a come lo Stato, attraverso la giurisprudenza, quindi attraverso il potere giudiziario, interviene o non interviene su questa materia. Le faccio un esempio. La sentenza della Corte Costituzionale che è intervenuta sulle norme del governo, su cui si tornava con un testo che era tecnicamente sbagliato, questo era evidente a chiunque si era occupato della faccenda, anche sul tema di cui si era occupato il referendum, quello sull'acqua, che aveva visto una stragrande maggioranza di italiani pronunciarsi per l'acqua pubblica. Poi però interviene la Corte Costituzionale su una norma che tornava sulle procedure di affidamento anche dell'acqua, e prende una decisione che in realtà rimette in discussione tutto ciò che il governo aveva tentato di fare per diminuire le possibilità di affidamento in house dei servizi pubblici locali nel nostro paese. Interviene la Corte Costituzionale e, appoggiando il proprio giudizio tecnicamente ineccepibile in quello su il risultato del referendum sull'acqua, butta per aria di nuovo tutto ciò che si era tentato faticosissimamente tra mille resistenze di fare per aprire di più alla concorrenza il mercato dei servizi pubblici locali. E siamo punto e da capo, perché questa è una vicenda che viene dopo molti anni in cui in realtà il pallino della politica è sempre quello di fare rimanere il più possibile le gestioni in house senza fare gare, dicendo no al vaglio che era stato messo all'antitrust per giustificare le eccezioni e così via. Ecco, in questo caso, quando è anche l'ordinamento giudiziario, io non voglio che lei faccia polemiche, ma voglio che spieghi a chi è a casa che insomma è una questione molto complicata, perché non c'è solo la politica che dice no, non c'è solo le norme amministrative piene di trappole nel come sono congegnate a volte e adottate. È un po' proprio, non si sa mai dove sbattere la testa, perché lì si ricomincia quasi da capo sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte. E allora, primo punto, vorrei sottolineare come secondo l'autorità garante della concorrenza del mercato il settore dei servizi pubblici locali era ed è un settore cruciale per l'apertura alla concorrenza e per produrre crescita e soprattutto per attrarre investimenti. Da tempo diciamo che per rimettere in moto il sistema occorre essere attrattivi e far sì che anche capitali da fuori vengano in Italia. Questo era un settore importante. la normativa recente, quella adottata poi completata dal governo Monti, ma prima di lui già appunto c'erano state appunto gli interventi del precedente governo, e aveva operato una forma avanzata di liberalizzazioni, proprio rompendo quell'intreccio tra pubblico e privato che dicevamo. La sentenza dice: tutta questa normativa va in larga misura cancellata. Siamo allora di nuovo all'anno zero, certo, è difficilissimo ormai rimettere in moto qualcosa, però le faccio un'anticipazione. L'autorità garante della concorrenza del mercato farà tra breve una segnalazione proprio in materia di liberalizzazioni e metterà in evidenza come la sentenza della Corte lascia aperto degli spazi per una normativa che rilanci la liberalizzazione in alcuni settori di servizi pubblici, per esempio nel trasporto pubblico locale. Nel trasporto pubblico locale ci sono situazioni appunto di sostanziale monopolio pubblico o dei soggetti privati però strettamente dipendenti dal pubblico che operano in regime di sostanziale monopolio. Credo che lì, anche alla luce della sentenza, si possa fare qualche cosa e si possa aprire la strada verso forme di liberalizzazione. Speriamo che ci sia una politica che utilizza questi varchi, una sentenza della Corte, questo è il problema. È il problema centrale, perché come ha detto lei, noi ci troviamo in Italia in un sistema molto complesso, dove ci sono appunto numerosi poteri di veto, quindi è difficile che una decisione per il mercato, per la concorrenza, per i consumatori, poi riesca a implementarsi e realizzarsi sul serio. E dall'altro lato poi occorre un problema di serietà della classe politica, che ha detto che vuole appunto migliorare il tasso di concorrenza in questi settori. Speriamo poi che sia coerente tutta la classe politica governativa e parlamentare. Un'altra lettera di Sperati Mai, hanno fatto molto discutere, sono arrivate molte mail, ho tentato di rispondere a tutti, dopo il caso di due imprenditori della grande catena di ristorazione fast food, che con un fatturato di 7 milioni e mezzo, 7 milioni e 7, conti alla mano, dicevano che rimaneva di utile solo poco più di 100.000 euro e lo Stato se ne pappava più dell'80%. Molta incredulità. Sono stato felice che ieri la stampa di Torino, con una pagina intera, un articolo di Alessandro Barbera, abbia ripreso e spiegato con molta cura come esattamente possa avvenire così, e tantissime sono le lettere di piccole imprese che sono arrivate a Disperati Mai qua, Radio 24, come questa di Alberto, che ci scrive: sono un altro imprenditore nella stessa situazione dei casi che ci hai raccontato nei giorni scorsi. Con grande difficoltà, circa 30 anni fa, insieme a mia moglie, sono riuscito a tirare fuori dal sicuro fallimento una piccola attività artigianale di mio padre. Abbiamo lavorato giorno e notte, pagando i debiti, molti, lasciateci sulla groppa. Le cose con grande fatica sono andate bene, sacrificando molto famiglia e figlia. E questo è inevitabile quando ovviamente si fanno attività di questo tipo. Negli anni siamo riusciti ad aprire 4 altri punti vendita, anche di medie dimensioni, con più di 30, anzi per la precisione 34 collaboratori, fino ad arrivare a circa 7 milioni di fatturato, come i colleghi più o meno di cui hai parlato tu nei giorni precedenti. Per sopravvivere alla grande concorrenza del nostro settore alimentare, ci siamo affidati a un gruppo di acquisto. In pratica però oggi, al quinto anno di crisi, ci troviamo a lavorare per loro, ma soprattutto per lo Stato. Succo del discorso. Fatturato 2011, come ti ho detto, circa 7 milioni di euro, alla fine dell'ultimo anno nero, bilancio con un utile ridicolo, 27 mila euro di utili pre-tasse, e con quello che rimane quindi non riusciamo a pagare ciò che ci chiede lo Stato. Lo Stato, per il solo IRAP, per i 34 dipendenti, ci chiede più dell'utile pre-tasse che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno le cose stanno ancora andando peggio, e ora sono qua di domenica a far tirare i conti che non tornano. Ecco, questo per dire di quale sia poi la realtà vera della difficoltà della piccola impresa di fronte a stretta del credito, i cattivi pagatori, ma enormemente cresciuta partita fiscale. E a questo punto la domanda per Onofrio Rosati, che ci ha raggiunto, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, la CGIL. Per Onofrio Rosati è: in una situazione come questa, quindi con una crisi dell'occupazione, di discontinuità di impresa così profonda che morde nel cuore profondo e nel portafoglio l'Italia dei redditi bassi e medi, a suo giudizio, Di Rosati, dalle liberalizzazioni ne abbiamo fatto un cattivo uso e la gente quindi ne diffida perché non crede più all'occupazione nuova che può venire, oppure si tratta di insistere con ancora maggior forza, oppure è semplicemente sbagliata questa strada e bisogna puntare ad altro, non a liberalizzare ma a far intervenire di più lo Stato? Come la pensa il segretario generale della Camera del Lavoro di Milano? Buongiorno intanto e grazie di essere qui con noi. Sì, buongiorno, grazie a voi. Io penso che dentro la crisi bisogna tutti insieme tentare di mettere in discussione alcuni paradigmi tra chi è più per lo Stato, chi è più per le liberalizzazioni e il libero mercato. Bisognerebbe secondo me trovare dei nuovi equilibri, nel senso che per rispondere alle domande le liberalizzazioni vanno fatte, vanno sostenute soprattutto nei settori dove è possibile creare mercato e concorrenza. Bisogna rompere i monopoli che purtroppo ci sono e che creano sprechi, inefficienza, che non sono solo monopoli pubblici ma sono anche monopoli privati. Questi anni la grande contraddizione nostra è stata di considerare le privatizzazioni come liberalizzazioni. Spesso si è privatizzato non liberalizzando e quindi non creando mercato. Io penso che dalle liberalizzazioni il Paese possa trarre l'infa per la sua modernizzazione e quindi per rimettere in moto anche l'economia, però come tutti sappiamo i processi di liberalizzazione hanno degli start-up molto lunghi e quindi non danno subito dei benefici anche dal punto di vista, io penso, dal punto di vista occupazionale. Se mi si dovesse dire grazie alle liberalizzazioni è possibile trovare una soluzione alla riempiegabilità delle persone che hanno perso occupazione in questi anni, direi che la cosa la vedo molto difficile nel breve periodo, però senz'altro fatte bene, cosa che in Italia è sempre stato molto difficile riuscire a farle, possono essere una delle risposte da dare per uscire fuori dalla crisi. Allora, possono essere una delle risposte, però attenti ai paradigmi rigidi, ideologici, dice Rosati, sì. Perché ci sono delle cose, se capisco bene, in cui lo Stato poi è, nella crisi a maggior ragione, inutile dire di no, ha un ruolo. Ecco, la sintesi di Rosati, le prego di restare con noi, sentiamo come la pensa un ascoltatore, Dino da Padova. Dino da Padova, prego. Buongiorno Giannino e grazie dell'opportunità. Ci siamo già sentiti in passato per la liberalizzazione, per l'abrogazione del registro installatori. In pratica questo governo non solo non crea delle liberalizzazioni, ma addirittura è lì che tentenna per abolire un tentativo di nuova cassa, di nuova chiusura del mercato. È da maggio che ci stanno dicendo che faranno qualcosa, perché chiaramente il registro installatori è in totale contrasto con i loro stessi principi enunciati nel decreto semplificazioni. Uno si aspetterebbe, in un mondo normale, che se hai fatto un decreto semplificazioni che dice l'esatto contrario di quello che c'è contenuto nel decreto di istituzione del registro installatori, ci fai una croce sopra e lo elimini. Non passano mesi e mesi in cui non succede niente. E soprattutto, per fare start-up, prima si crea il mercato libero e poi si fanno le start-up. Perché se le start-up devono essere una specie di aziende che lavorano solo nelle riserve indiane, cioè in quei settori Dino, ma quale particolare interesse c'è dietro questa introduzione della nuova figura professionale che vivrebbe di emanazione dell'iscrizione al registro degli installatori? Vabbè, di sicuro c'è un interesse perché aumenta il lavoro per il Ministero dello Sviluppo Economico, ecco, appunto, e il Dipartimento Comunicazioni, appunto. Questo è sicuro. Provate a immaginare che ogni singolo impianto di ogni singola azienda e privato italiano debba essere documentato con l'invio della documentazione di questo impianto, pericolosissimo perché si tratta di quello dati, ovviamente deve essere inviato agli ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo prevede l'attuale legge che se non viene abrogata continua ad esistere. Va tra bene. Altre cose, oggi tutti gli italiani sono fuori legge perché chiunque abbia installato una DSL è, secondo il DM314 attualmente in vigore, non in regola. E non in regola, infatti, è una contraddizione evidente. Allora, Roberto La Firenze come la pensa invece? Roberto? È in linea Roberto La Firenze? Non è più in linea, mi pare di capire, perché non sente, perché ha lasciato il telefono aperto, ma stava parlando. Invece Mariano dalla provincia di Milano c'è? Sì, pronto? Prego Mariano. Buongiorno dottor Giannino, la ascolto sempre con piacere. Volevo dire che sono piuttosto d'accordo con quello che diceva il professor Rosati ed è il caso di uscire da questa retorica delle stazioni e delle privatizzazioni che creano occupazione. Secondo me ci sono certi servizi che se lo Stato non è in grado di garantire, non ha neanche il senso che esista lo Stato. Se lo Stato non è in grado di garantire la fornitura dell'acqua ai propri cittadini, non ha neanche senso che ci sia un qualcosa chiamato Stato. A questo punto non avrebbe neppure senso che ci sia una magistratura pubblica, una polizia pubblica. Per me è una cosa sullo stesso piano. Mariano, però posso farle notare, cioè lei ricorre a un paradosso. Io le cito il dato, la stima, quella, sempre quella quando facciamo il referendum, degli oltre 60 miliardi di euro che sono necessari in Italia per perfezionare il ciclo del trattamento a ciclo chiuso dell'acqua, compresi quindi i rifiuti, e evitare lo smaltimento a mare, per così dire, no? Delle acque reflue. E per aumentare la percentuale di efficienza degli acquedotti e per coprire in maniera appena diciamo così civile la carenza di servizio idrico che c'è ancora in più di un terzo d'Italia, a Sicilia per esempio, tanto per dirne una. Allora, quei 60 miliardi il pubblico non ce l'ha. Allora, lei mi dice, se lo Stato non è questo, aboliamo lo Stato. Ma io le vengo dietro, però attento che lei afferma una cosa, ma in realtà è che lo Stato non ce l'ha quei soldi. Tanto è vero, le faccio notare, che siccome non ce li ha in Sicilia, parliamo di una cosa concreta, in Sicilia continuiamo, in nome della difesa degli acquedotti pubblici che perdono soldi, in nome della difesa del pubblico, a far finta di non vedere che da sempre dietro le autobotti private che riforniscono fior di centinaia di comuni, province intere in Sicilia per due terzi dell'anno, c'è la mafia. La mafia, lo sanno tutti che è così. C'è la mafia per difendere l'intoccabilità del pubblico, perché se non è il pubblico a dare l'acqua, chi deve essere? Ebbene, il pubblico i soldi non ce l'ha. Risultato, la mafia. Allora, io può essere che segua ai suoi occhi un paradosso ideologico, e quindi capisco che lei dice la sentenza della Corte è sacrosanta, rimettiamo tutto a marcia indietro. L'effetto però nell'Italia concreta che conosco io è che con questi principi possiamo continuare a farci la guerra ideologica, e io non ne ho più voglia. La mafia ci ringrazia. Ecco, questo è quello che voglio dire. Rosati, diciamo la verità, posso farle una domanda? Oggi forse a sentire la sua organizzazione è più lo Stato che dovrebbe riprendersi qualche cosa, promuovere politiche di intervento diretto, o mi sbaglio? Beh, c'è sicuramente una riflessione anche su un nuovo profilo che deve assumere l'intervento pubblico. Poi che siano lo Stato, siano le istituzioni locali, nel nostro ragionamento noi non facciamo grosse differenze. Pensiamo che ci sia la possibilità, naturalmente non rieditando la vecchia stagione degli sprechi fatti con le politiche dell'IRI, perché questo sicuramente il Paese non può più permetterselo, ma pensiamo che in alcuni settori, ad esempio a sostegno della ricerca, ad esempio nei settori per quanto riguarda lo sviluppo industriale, ci possa essere un ruolo diverso rispetto a quello che lo Stato ha avuto in questi anni. Ma se le chiedessi, Rosati, di dire un discorso sì no, per esempio nella storia delle municipalizzate negli ultimi 10-15 anni, le municipalizzate sono state una delle espressioni nascente del socialismo municipale, no? Fanno parte della storia italiana da quel punto di vista, poi sono degenerate quando si sono moltiplicate a migliaia, occupate dai partiti. Negli ultimi 10-15 anni continuiamo a dirci che devono emendarsi, però è ancora sotto gli occhi di tutti che un vero piano industriale di accorpamento eccetera eccetera, alla fine la politica delle diverse città vuole continuare a controllare i posti eccetera, e dice no, e questo è riguardato per così dire la storia di A2A Milano-Brescia, il fallimento con Edison, gli accorpamenti sull'asse Emiliano e così via. Se la sente di dire che è un po' così, e che quindi motivo di fidarsi troppo che la politica abbia imparato da questo punto di vista non c'è, oppure invece secondo lei sbaglio? Intanto non bisogna lasciare solo la politica per evitare che ci possano anche essere le degenerazioni che abbiamo conosciuto negli decenni precedenti, per cui bisogna mettere nelle condizioni i consumatori, gli organismi terzi, di controllare, di vigilare che certe diciamo situazioni non possono riverificarsi. Dopodiché io non darei un giudizio, diciamo così, a 360 gradi liquidatorio di tutte le esperienze delle ex municipalizzate. Abbiamo provato ad esempio a Milano, nell'esperienza che abbiamo fatto con le giunte anche di questi anni a riorganizzare e riformare una serie di aziende. Prima erano aziende che erano in passivo di bilancio e quindi gravavano necessariamente sulle casse dell'amministrazione comunale, quindi sulla collettività. Oggi queste aziende sono state riorganizzate, riformate attraverso piani industriali anche molto pesanti e sono nelle condizioni, diciamo, di poter muoversi con le proprie gambe. Mi dice, qualche segnale c'è. Qualche segnale c'è, ci vogliono delle amministrazioni che abbiano l'intelligenza di guardare oltre il proprio mandato. Diciamo che per il momento la vicenda di cui ci occupiamo tutti i giorni sembrano dire il contrario. Stagnaro, uno degli assi del rapporto di quest'anno è proprio l'occupazione, il lavoro che può venirne, su cui gli italiani sono sempre più scettici. Quanto ne può venire? Ma ne può venire tanto e lo dimostrano tre punti banalissimi. Il primo è che le liberalizzazioni sono normalmente associate a riduzione dei prezzi e quindi liberalizzare vuol dire proteggere il salario dei lavoratori. Secondariamente, alcuni grandi temi industriali che stiamo discutendo oggi, da Alcoa a Ilva e così via, sono fortemente condizionati dal costo dell'energia che in Italia è superiore alla media europea. Se avessimo liberalizzato prima e di più, questo problema non ci sarebbe. Terzo, Susanna Camusso in un'intervista all'Unità pochi giorni fa ha detto giustamente che uno degli errori italiani è stato pensare di affidare la produzione di automobili a una sola azienda. Bravo. E non aprirsi ad altre aziende. Io sono con Susanna Camusso a favore delle liberalizzazioni per creare occupazione. Esatto, a cominciare anche quella dai mercati protetti per troppi decenni come quelli dell'auto. Vedete che siamo tornati esattamente da uno dei punti da cui eravamo partiti, oltre alla vergogna laziale di tutte le regioni italiane.